Mezzanotte, le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. E siccome sono regole che valgono per tutti, sia la legge elettorale che le riforme costituzionali, perché sono le regole del nostro stare insieme come paese, si scrivono anche con chi non la pensa come noi. Mi sembra sia un buon esempio anche per i bambini. Insomma, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, ricominciamo questa settimana con l'effetto notte con questa dichiarazione della ministra Boschi, che dice praticamente che il patto nel Nazareno è un buon modello anche per i bambini, cioè il fatto di comunicare, di confrontarsi anche con pareri diversi ha uno scopo educativo anche per i più piccoli. Questa forse non l'avevamo mai sentita e comunque è stata detta oggi dalla ministra Boschi. Però in realtà ci sono ancora delle forti tensioni all'interno della maggioranza sul Jobs Act, sulla riforma del lavoro. La sottosegretaria al lavoro, infatti, Bellanova, ha annunciato che il governo depositerà martedì in commissione, cioè domani, in commissione lavoro un emendamento alla delega sul Jobs Act che riguarda il famoso articolo 18. E allora subito c'è stata la replica di Maurizio Sacconi del Nuovo Centrodestra, che ha detto: non corrisponde a quanto concordato. Se vedessimo un testo diverso da quello che conosciamo, ce ne andremo dalla commissione e si aprirebbe un bel contenzioso nella maggioranza. Si inizia, insomma, con propositi un po' bellicosi questa nuova settimana. Vediamo oggi in complesso che giornata è stata. Jobs Act si vota alla Camera entro il 26, ma dal Nuovo Centrodestra insorge contro l'emendamento del governo che recepisce i correttivi della minoranza PD. Lo sciopero del 5 dicembre è parzialmente illegittimo, lo dichiara l'autorità di garanzia per gli scioperi, specificando che alcuni settori andranno esclusi dallo stop. Ed è una notizia di questi istanti. C'è stato appena finito l'incontro tra governo e sindacati. Camusso dice: qualche auspicio, nessuna risposta sulla pubblica amministrazione, nessuna apertura su occupazione e contratto. Mentre Furlan di CISL dice: al di là dei bei modi, nessuna novità. Insomma, praticamente hanno detto la stessa cosa. Maltempo continua a piovere sul nord, deroga al patto di stabilità per i comuni alluvionati, lo assicura Del Rio. La banca centrale e la crisi, Draghi dice: riprese ancora a rischio, possibile acquisto di titoli. E poi terroristi dell'ISIS, anche tre giovani europei fra i boia dei soldati catturati. Il segretario di Stato americano Kerry afferma che l'Iraq è pronto a una controffensiva. Ucraina, la Merkel avverte: c'è il serio rischio che il conflitto si estenda. Per il calcio, caos a San Siro, 17 croati arrestati. Domani l'Italia in un amichevole contro l'Albania per gli alluvionati a Genova. Partiamo quindi dalle ulteriori tensioni, dicevamo, sul Jobs Act. Per la riforma del lavoro ci sono tempi strettissimi. Un Jobs Act sempre più problematico per il governo, questa volta a contestare il Nuovo Centrodestra. L'esecutivo modifica il disegno di legge preparando un emendamento che recepisce quanto deciso dalla direzione PD, ovvero si parla di reintegro nell'articolo 18 anche per i licenziamenti disciplinari, oltre che per quelli discriminatori. Il voto finale è atteso il 26 novembre nell'aula di Montecitorio, mentre il giorno dopo arriverà la legge di stabilità. Non è ancora chiaro però se sul Jobs Act ci sarà la fiducia. Roberto Speranza del PD lo esclude, mentre il ministro dei rapporti con il Parlamento, Maria Elena Boschi, è possibilista. Ancora è prematuro, dobbiamo prima terminare il lavoro in commissione e vedere quanti emendamenti saranno presentati per l'Aula, quindi potremo deciderlo soltanto nei prossimi giorni. Sicuramente c'è la necessità di chiudere in tempi certi. L'emendamento sull'articolo 18 dovrebbe arrivare in commissione lavoro alla Camera, ma Maurizio Sacconi avverte: se vedessimo un testo diverso da quello che conosciamo, dice il capogruppo del Nuovo Centrodestra, ce ne andremmo dalla commissione e si aprirebbe un contenzioso all'interno della maggioranza. Elisabetta Fiorito, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma. E sul fronte delle vertenze relative al lavoro, oggi i riflettori restano puntati sulle acciaierie di Terni, l'AST. I sindacati hanno incontrato a Monaco i rappresentanti della casa madre tedesca, che è la ThyssenKrupp, per avere delle maggiori garanzie in vista domani della riunione, si sperava decisiva, al Ministero dello Sviluppo Economico. L'incontro però non è andato come previsto, così spiega Maria Antonietta Vicaro dell'UGL Metalmeccanici, intervistata da Livia Zancaner. Il piano aziendale, che prevedeva alcuni aspetti che noi ritenevamo non accettabili, di fatto è stato confermato. Era importante avere comunque un contatto diretto con l'azienda, alla quale abbiamo sostanziato anche le nostre modifiche. L'azienda però ci è sembrata abbastanza irremovibile. Quindi le rassicurazioni che avete avuto settimana scorsa cadono, non ci sono più? In parte sono state confermate, altre invece, ad esempio quello della durata, cioè della verifica comunque dopo 2 anni della permanenza del secondo forno, l'azienda ha detto che dovrà necessariamente fare una verifica sulle prerogative che ci danno la possibilità di mantenerlo in essere. Domani come andate all'incontro? Le aspettative che in qualche modo il governo ci aveva confermato in parte vengono smontate e disattese. Non ci sono posizioni purtroppo all'uscita di questo incontro molto, molto ottimistiche. E a proposito dell'incontro, vi dicevo prima, tra sindacati e governo, tutti e 3 i sindacati sono concordi nel dire che non c'è nulla di fatto. Intanto l'autorità di garanzia per gli scioperi ha dichiarato lo sciopero generale del 5 dicembre, quello indetto dalla CGIL, parzialmente illegittimo, specificando che alcuni settori andranno esclusi dallo sciopero a partire dall'intero comparto del trasporto ferroviario. Siamo ancora sul Moltempo, nuove perturbazioni oggi negli stessi comuni già colpiti sabato scorso, dove oggi ha presieduto una serie di incontri tecnici il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Delrio. Il patto di stabilità non sarà un problema per i comuni che hanno subito eventi drammatici come questo dell'alluvione, come questi della Liguria e di altre regioni italiane. Così Graziano Delrio a Genova, prima tappa dei suoi sopralluoghi nelle città alluvionate. Accompagnato dal capo della Protezione Civile Gabrielli, il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, rivolgendosi ai sindaci, ha assicurato che non ci devono essere timori per gli investimenti per la sicurezza. Più tardi, ad Alessandria, Delrio ha annunciato un nuovo grande piano straordinario nazionale. Dopo aver sbloccato già 2 miliardi di vecchi accordi di programma che giacevano, adesso abbiamo nuovi accordi di programma, cioè nuove opere per il dissesto idrogeologico. Il 4 dicembre faremo il punto. A Milano, ultima tappa, Delrio ha garantito 80 milioni di euro per la messa in sicurezza del Seveso. Le rassicurazioni del governo nell'ennesima giornata di piogge sulle aree già colpite. Una perturbazione quest'ultima meno intensa di quella di sabato, tuttavia minacciosa per i terreni ormai saturi d'acqua, i bacini e i corsi d'acqua gonfi. A preoccupare in particolare i laghi Maggiore d'Orte e anche il livello del Po. In Emilia-Romagna oltre 1000 gli sfollati tra le persone residenti nelle aree golenali del fiume in vista della prossima piena. In Liguria nuova giornata di allerta mentre procedono le ricerche di Luciano Balestrero disperso da sabato. A Milano, che ha vissuto ancora disagi nei trasporti e nella viabilità, il governatore Maroni ha stimato in 30 milioni di euro i danni subiti dalla Lombardia. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E occupiamoci a questo punto di economia con le parole del presidente della Banca Centrale Europea Mario Draghi. The euro area growth momentum has weakened. Nuovo monito del presidente BCE Mario Draghi sulla situazione economica nel vecchio continente. Lo slancio di crescita della zona euro si è indebolito durante l'estate. La ripresa è messa a rischio da disoccupazione alta, capacità produttiva inutilizzata e necessari aggiustamenti di bilancio. Così Draghi nel corso dell'audizione al Parlamento europeo, ricalcando le recenti e funeree previsioni della Commissione. Il presidente dell'Eurotower punta anche il dito contro i rischi geopolitici che minano la fiducia e gli insufficienti progressi nelle riforme strutturali. Di qui l'appello alla politica monetaria: da sola non basta a superare la crisi, l'eurozona deve accordarsi con urgenza su impegni a breve termine, sulle riforme, su un'applicazione conseguente del patto, su una strategia per gli investimenti e su una visione a lungo termine per condividere sovranità. Draghi conferma tra le nuove misure non convenzionali che la BCE potrebbe prendere c'è l'acquisto di bond sovrani, prima di ammettere siamo ancora in una situazione nella quale la nostra politica monetaria accomodante non raggiunge in modo sufficiente l'economia reale perché il mercato del credito in alcune parti dell'eurozona è squilibrato, ma resta ottimista. Infine, rispondendo a un deputato del Movimento 5 Stelle, afferma la BCE non ha potere e non può autorizzare i paesi a stare nell'euro o a lasciarlo, ma l'euro, dice Draghi, è irreversibile. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E sembra anche il Giappone non cavarsela per niente bene, anche peggio che l'Europa. I dati sul prodotto interno lordo del terzo trimestre hanno riferito di una nuova contrazione contro tutti i pronostici e l'arcipelago è formalmente ricaduto in recessione tecnica. Il primo ministro giapponese Abe dovrebbe annunciare domani il rinvio dell'aumento dell'IVA dall'8% al 10%. Restiamo quindi all'estero con la lotta all'ISIS. Fa discutere il riconoscimento nel video diffuso ieri di 2 boia venuti dall'Occidente. Il padre di un giovane gallese convertito all'Islam ha ritrattato, prima ha detto che lo aveva riconosciuto, che era suo figlio e che non avrebbe mai potuto perdonare, poi ha ritrattato, è arrivata la conferma da Parigi che ci sono anche 2 giovani francesi nell'esercito dell'ISIS. Poi ne parleremo in modo approfondito, anche di come sembri strano che dei padri che sembrano interessati integrati poi in Europa generino dei figli che invece hanno questo senso di rivalsa e questo odio e questo rancore, questa voglia di uccidere, di far parte di un movimento come questo. Ritorniamo però sulle questioni italiane con la cronaca, con le proteste a Roma e Milano. Partiamo dalla capitale, da Tor Sapienza. No, non vogliamo esponenti politici. È il Movimento 5 Stelle che ha la Caritas. Ma che io da qualche scuola vengo a fare politica per farmi cazzi miei o per risolvere? Ma perché? Ma scusa un attimo, ma fino a lunedì mando sale. Decisamente poco gradita la visita di Paola Taverna a Tor Sapienza. La senatrice pentastellata che guidava una delegazione del Movimento 5 Stelle è stata cacciata dai residenti riuniti in assemblea in vista dell'incontro di domani in Campidoglio con Marino. Io vado dove voglio, abita a 100 metri da qui al quarticciolo, ha replicato la parlamentare aggiungendo di non voler fare una passerella politica. La stessa sorte era toccata più o meno a Borghezio, Meloni, infine al sindaco fortemente contestato con fischi e insulti qualche giorno fa. Ma intanto la protesta anti-immigrati rischia di dilagare in altre periferie. Ieri si tina l'Infernetto a sud di Roma, dove sono arrivati alcuni minori trasferiti in fretta dal centro di Via Morandi. Insomma, tante gatte da pelare per il sindaco Marino che si aggiungono alla vicenda delle multe. Per ora lui non molla, anzi si dice straconvinto di potercela fare ad andare avanti, ma il PD romano, con cui si vedrà domani, gli sta con il fiato sul collo e gli ha già chiesto di azzerare la giunta. Probabile che alla fine si arrivi ad un rimpasto. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma. E a Milano le tensioni si sono verificate oggi nelle periferie per uno sgombero di un appartamento Aler. Continuano le indagini delle forze dell'ordine sui gruppi antagonisti che ostacolano gli sfratti degli abusivi dalle case popolari e intanto nel quartiere milanese Giambellino sono scoppiati dei tafferugli proprio tra antagonisti e polizia durante uno sgombero di una coppia da un appartamento dell'Aler in via Vespri Siciliani 71. Una quarantina di contestatori ha lanciato pietre, estintori ed altri oggetti contro gli agenti che hanno risposto con i lacrimogeni. I contestatori sono diventati poi circa 70 e si sono spostati in piazza Frattini, dove hanno occupato la strada e impedito il transito del tram. Tre feriti, tra cui un poliziotto, due arresti e diverse persone fermate. E ci sono due ragazze di circa 25 anni appartenenti all'area anarchica milanese, residenti in case Aler, occupate con altri loro compagni al Corvetto. Tra le quattro persone indagate per l'irruzione alla sede del PD di Corvetto a Milano lo scorso 11 novembre, mentre era in corso proprio una riunione del SUNI, il sindacato degli inquilini delle case popolari, gli indagati sono accusati di lesioni personali, violenza privata e danneggiamento aggravato. Anna Marino, Radio 24, Sole 24 Ore. E poi questa storia che viene da Napoli, questo fatto di cronaca, un ordigno contenente circa un chilo di esplosivo è stato trovato questa mattina davanti a una filiale della Deutsche Bank nel quartiere Vomero. Gli artificieri hanno accertato che la miccia era stata accesa, che si era spenta prima di raggiungere l'esplosivo, forse cadendo sullo zerbino bagnato dalla pioggia. Gli investigatori propendono per motivarlo come un tentativo di furto al bancomat anziché un attentato da parte di anarchici o altri movimenti. Per chiudere il calcio, il giorno dopo gli incidenti di San Siro e alla vigilia siamo dell'amichevole a Genova contro l'Albania per gli alluvionati. Il fumo di petardi e fumogeni è evaporato in pochi minuti, ma dopo la serata di San Siro restano sul campo le polemiche insieme al bilancio stilato dalle forze dell'ordine. Arrestati 16 tifosi croati, resisi protagonisti del lancio di oggetti e altri fumogeni contro le forze dell'ordine, mentre si trovavano all'esterno dell'impianto milanese. Ma chi sono questi ultra? I 300 Bad Blue Boys Zagabria non facevano parte dei circa 10.000 tifosi che avevano comprato il biglietto attraverso la federazione croata. Probabile il coinvolgimento di prestanome italiani. E come hanno fatto questi ultra a far entrare fumogeni e petardi? I controlli all'ingresso sono inevitabilmente limitati, ammette il questore di Milano Luigi Savina. Per arrivare a un controllo effettivo dovremmo fare una perquisizione personale, ma non si può fare quando si tratta di migliaia di persone. Prevedibili le sanzioni UEFA, anche perché la tifoseria biancorossa è recidiva. Non è da escludere una squalifica del campo croato, ma anche l'Italia potrebbe subire una multa per i problemi organizzativi. Con questo spirito si va a Genova per l'amichevole degli azzurri con l'Albania, sperando in una tregua del maltempo e in una serata di festa a sostegno della città martoriata dalle alluvioni. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Già, e poi ne parleremo delle alluvioni, del dissesto idrogeologico e anche delle previsioni del tempo, per capire forse da domani probabilmente dovrebbe migliorare un po' di tregua, un po' di respiro per tutti. Mi sono dimenticata di dirvelo, come sempre, due canali per la vostra interazione. C'è la pagina Facebook di Effetto Notte, lì potete aderire tutte le volte che volete, potete scrivere. Poi c'è anche il numero degli SMS, che è il 349-238-6666, per esprimere liberamente le vostre riflessioni, le vostre opinioni sulle cose della giornata. A tra poco. Perfetto Notte. Le notizie in 60 minuti. Rieccoci subito insieme. Stavo leggendo uno dei vostri messaggi che fanno un po' il verso alla dichiarazione che abbiamo sentito all'inizio della ministra Boschi, che diceva che praticamente il patto del Nazareno e quindi il confrontarsi diventa un modello positivo anche per i bambini. Allora, questo ascoltatore o ascoltatrice al 349-238-6666 potrebbe scrivere un nome qualsiasi almeno per essere identificato, così per dire si tratta di lui o di lei, dice: mi pare sensato che in un paese in mezzo ai guai mettersi a litigare sull'inutile questione dell'articolo 18, questo non fa bene ai bambini, effettivamente non fa bene. Vi riassumo le notizie brevemente e poi cominciamo a approfondirne alcune. Jobs Act entro il 26 va alla Camera, la riforma del lavoro, il nuovo centrodestra però è contro l'emendamento del governo e Renzi intanto a Sydney dall'Australia dice basta piagnistei e l'Italia tornerà leader. Allarme di Draghi della Banca Centrale Europea, riprese a rischio per l'austerity, crolla intanto il prodotto interno lordo del Giappone, ferma l'economia tedesca. Deroga al patto di stabilità per i comuni alluvionati, lo assicura Del Rio, oggi a Genova e a Milano faremo un grande piano nazionale. Anche tre giovani europei ci sono fra i boia dell'ISIS, il sottosegretario di Stato americano Kerry dice l'Iraq è pronto a una controffensiva. Poi le proteste dei residenti di Tor Sapienza a Roma che cacciano anche il Movimento 5 Stelle dicendo fate schifo tutti. Poi noi gli sgomberi, invece questi sono i tafferugli a Milano tra antagonisti, polizia e poi paura a Napoli per un pacco bomba davanti alla Deutsche Bank. E Merkel, la cancelliera tedesca, che avverte sull'Ucraina a rischio di conflitto esteso. E poi gli arresti, le accuse per i razzi a San Siro, la Croazia si scusa, domani ci sarà Italia-Albania. E quindi parliamo adesso del maltempo. Allora, abbiamo detto che imperversa continua a flagellare soprattutto il nord nelle ultime ore. Per quanto riguarda la Lombardia sono stimati in oltre 30 milioni i danni dell'ultima alluvione nella regione. È per questo che il presidente Maroni ha deciso che domani chiederà la dichiarazione di stato di emergenza in Lombardia. Intanto Del Rio, sottosegretario alla presidenza, oggi che ha girato per varie città colpite dal maltempo, ha confermato uno stanziamento di 80 milioni per il Seveso, il fiume che a Milano straripa ogni 2x3. Intanto in Romagna c'è la piena del Po, il rischio anche che peggiori, quasi 600 persone già evacuate. Poi oggi il presidente dell'ANCI, cioè l'Associazione dei Comuni Italiani, Piero Fassino, e il presidente di ANCI Liguria, Marco Dori, hanno scritto una lettera a Renzi chiedendo tra i provvedimenti l'allentamento dei vincoli del patto di stabilità per le spese di ricostruzione e messa in sicurezza dei territori effettuati dai comuni colpiti dal maltempo. E poi è arrivato Chiamparino, presidente della Conferenza delle Regioni, che ha detto: dal governo sono arrivate due notizie positive oggi sul patto di stabilità e l'impegno per un piano nazionale idrogeologico. Allora sentiamolo direttamente dalla voce di Del Rio. Come sapete il governo è impegnato ad abbattere più del 70% del patto di stabilità, c'è una trattativa in corso con i comuni, non sappiamo come la legge di stabilità uscirà dal Parlamento, ma certamente il patto di stabilità non sarà un problema per i comuni che hanno subito gravissimi eventi catastrofici come appunto il terremoto, e non lo deve essere nemmeno per i comuni che hanno avuto eventi drammatici come questo dell'alluvione, come questo della Liguria e di altre regioni italiane. Quindi anche su questo abbiamo detto, è un'altra richiesta precisa dei sindaci, abbiamo detto di non avere timore, perché certamente il patto di stabilità per il ripristino delle opere pubbliche, per gli investimenti, per la messa in sicurezza non deve essere un problema. Intanto leggo che c'è una nuova allerta per quanto riguarda la Liguria. Saluto nel frattempo Gianvito Graziano, buonasera. Buonasera a voi. Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi, a lei faccio sentire ancora un passaggio di Del Rio sul piano per il dissesto idrogeologico del governo. Sentiamo. Il governo ha un piano per il dissesto idrogeologico, chiederà alle regioni entro i primi giorni di dicembre di presentare le loro nuove proposte per gli accordi di programma, le 14-20, un piano che è di diversi miliardi, che vengono dal Fondo Sviluppo e Coesione, dai fondi europei, un piano che viene costruito, si sta costruendo ed è in fase di avanzata elaborazione in uno stile di partenariato con tutti, dai geologi agli architetti a coloro che si occupano dai consorzi di bonifica, l'associazione dei costruttori, quindi c'è una lunga serie di alleanze che devono essere fatte per fare guarire questo paese che troppo spesso si trova ad affrontare emergenza e non sa pianificare nel medio e lungo periodo. Quindi Gianvito Graziano, siete coinvolti anche voi, no? Diceva dei geologi, la convince, sarà la volta buona finalmente di un piano per il dissesto idrogeologico dell'Italia che continua a sbriciolarsi? Ma guardi, mi convince intanto un cambio di rotta evidente da parte del governo, ma sotto tanti punti di vista, a cominciare dall'impegno finanziario che sino a qualche finanziaria fa si limitava a qualcosa come 30 milioni di euro, insomma, da distribuire sulle 20 regioni. Ora stiamo parlando non soltanto di spendere i 2 miliardi e 300 milioni che sono stati trovati, non spesi presso il Ministero dell'Ambiente, ma addirittura di nuovi accordi di programmi quadro, e si parla di qualcosa intorno al miliardo di euro l'anno. Io credo che fossero anche la metà, e quindi 500 milioni di euro l'anno, insomma, parliamo già di cifre molto maggiori. E poi appunto si sta andando avanti con questa unità di missione che coinvolge appunto anche i geologi, per la prima volta, devo dire, un coinvolgimento che arriva prima, quindi in una fase di prevenzione e non soltanto quando si tratta di commentare fatti accaduti. Quindi mi pare che da questo punto di vista qualcosa stia veramente cambiando. Ora vorremmo appunto che dalle parole si passasse ai fatti, e la deroga al patto di stabilità diventerebbe uno dei tanti fatti importanti che dimostrerebbero appunto un'attenzione che prima non c'era mai stata. Graziano, tra l'altro c'è un allarme lanciato oggi da Coldiretti, secondo il quale l'Italia ha perso negli ultimi 20 anni il 15% delle campagne per effetto della cementificazione e dell'abbandono provocati da un modello di sviluppo sbagliato, dice Coldiretti, che ha ridotto di 2,15 milioni di ettari la terra coltivata. Ogni giorno viene sottratta terra agricola per un equivalente, ogni giorno, di circa 400 campi da calcio, e quella disponibile non riesce più ad assorbire adeguatamente la pioggia. Quindi un sistema di sviluppo sbagliato, oggi diceva il presidente della regione Burlando, della regione Liguria Burlando, che non è tanto colpa dei sindaci, degli amministratori locali, ma è sempre stato lo Stato centrale che ha autorizzato cementificazione, speculazione e condoni, quindi. Che lo Stato centrale abbia autorizzato condoni è vero, perché soltanto uno Stato centrale può fare una legge sul condono edilizio, e sono contento che il ministro Galletti ha annunciato che mai più ci saranno condoni edilizi in questo paese. Speriamo che sia vero, insomma, che sia la volta buona. Che però si sia cementato e si sia consumato suolo, la colpa non è soltanto del governo centrale, perché poi tutto sommato le autorizzazioni, le concessioni edilizie sono comunque soldi, sono cassa per i comuni. Quindi quando facciamo realizzare il l'ipermercato piuttosto che altre strutture, non è lo Stato centrale che l'autorizza, insomma, questo sta nella politica locale, ma a livello proprio di sindaco, che può autorizzare o meno la realizzazione di una certa opera. E siccome abbiamo molto autorizzato, soprattutto fuori da una pianificazione regolare, ma insomma molte volte scellerata o molto spesso addirittura assente, il consumo di suolo, ha ragione Coldiretti, è diventato una cosa improponibile, per cui molte aree impermeabilizzate, abbiamo sottratto campi all'agricoltura e quindi alla nostra economia, ma in più abbiamo, diciamo, fatto sì che l'acqua che scorre in superficie è di molto aumentata, e oggi ci stiamo rendendo conto anche in funzione di piogge. Io non parlo di cambiamenti climatici, ma di piogge che avvengono in maniera molto diversa. Credo che la colpa sia di tutti, io non penso che sia del governo centrale né di quelli locali, ma di tutti quanti noi, diciamo, cittadini compresi. Gianvito Graziano, io la ringrazio, e poi il suo auspicio è che, anzi, lei ha parlato di un passo positivo nello stanziamento di questi soldi, della cifra, insomma, stanziata da questo governo, del piano nazionale di cui si è parlato, quindi stiamo a vedere cosa succede. La ringrazio intanto, grazie, buon lavoro. Grazie a voi. E saluto a questo punto Paolo Corazon, meteorologo di 3B Meteo. Paolo, che ci dirai se finalmente, effettivamente, come si sente, voci di corridoio da domani, il tempo dovrebbe un po' riprendersi, un po' di tregua. Ci siamo. Intanto buonasera a tutti, mi spiace che ci sentiamo solo in occasione di alluvioni o comunque di maltempo marcato, però tant'è, insomma. Ci sentiremo più spesso prossimamente. Volentieri. Beh, comunque sono felice di darvi le 7 buone notizie, anche se al momento non siamo ancora fuori da questa situazione così critica, perché sta ancora piovendo in maniera marcata in molte zone dell'Italia centrale e del nord-est, quindi non è ancora finita. In più c'è anche da seguire il Po, perché domani è prevista la piena del Po lungo il suo corso emiliano, e quindi bisogna vedere se gli argini terranno. Credo di sì, cioè, mi sembra di aver intuito un certo ottimismo. le mie competenze vanno dalla superficie terrestre in su, quindi io non mi occupo direttamente di fiumi e di terreno, ma più dell'aria. Ecco, da questo punto di vista, dal punto di vista atmosferico, domani netto miglioramento al nord e per diversi giorni non sono previste nuove perturbazioni. Questo consentirà sicuramente a laghi e fiumi di rientrare in una situazione più normale. Ancora un po' di variabilità domani al centro-sud invece, che però non dovrebbe essere interessato da fenomeni particolarmente intensi. Quindi insomma c'è un certo ottimismo da parte di noi meteorologi, si va verso un periodo un po' più tranquillo perché il resto della settimana appunto non vedrà nuovi passaggi perturbati particolarmente intensi. Grazie Paolo Corassone, a presto. Grazie, grazie, ciao, Paolo. A tutti. Ciao, ciao, ciao. Ciao. Adesso invece stavo guardando come vogliono sistemare il Seveso ora che avremo le vie d'acqua per l'Expo, dice Enzo 64. Meno male che c'è Maroni e di Varese, qui però non si è visto, dice Enzo da Varese, insomma vari vostri messaggi. Ma adesso è tempo di parlare invece di una nuova iniziativa del Sole 24 Ore col vice direttore Salvatore Padula, Chicco. Detto Chicco Salvatore, che cosa si tratta? Si parla di tasse qui, che è un argomento che magari è un po'. Parliamo di tasse. Però almeno tasse. Aiuta a capire cosa c'è da fare. Sì, aiuta a capire, perché da qui alla fine dell'anno noi, tutti noi, dovremo pagare 86 miliardi di tasse. Cioè abbiamo 40. Alcuni forse, non tutti evidentemente, no, come al solito. Ecco, diciamo. Sì, ma quasi tutti però, perché insomma ci sono le imposte sui redditi, quindi chi deve pagare, chi dovrà pagare a novembre, a fine di Parlando di evasione, stavo parlando in quel senso. No, stiamo parlando proprio delle tasse normali, quelle che si devono pagare, l'IRPEF, l'IRAP, l'IRES, ci saranno poi le tasse sulla casa. Allora la nostra iniziativa è che due volte alla settimana, il martedì e il giovedì, abbiamo delle pagine speciali per spiegare tutti questi adempimenti, sia per le persone fisiche normali, contribuenti normali, sia per i professionisti e per le imprese. Da qui alla fine dell'anno, due pagine il martedì e il giovedì, quindi domani per esempio avremo un focus su come si devono preparare a queste scadenze i lavoratori autonomi, le partite IVA che hanno un regime fiscale un po' particolare che si chiama il regime dei minimi, e poi via via seguiremo tutte queste scadenze. Salvatore, allora domani quindi esce questa ulteriore puntata di questa iniziativa, esatto. Così utile, visto che è molto complicato, intricato, riuscire a orientarsi tra tasse, imposte eccetera, quindi bravissima. Questo può essere uno strumento di grande aiuto. Ci aiuti anche a capire, Salvatore, questa deroga al patto di stabilità per i comuni, esattamente cosa significa con la Del Rio, la dichiarazione che ha fatto oggi? Sì, certo, significa che per tenere sotto controllo i conti delle pubbliche amministrazioni locali, tanti anni fa è stato introdotto un vincolo, un patto, un po' come è stato fatto a livello europeo, no? Cioè il patto di stabilità europeo, così anche lo Stato ha fatto un patto di stabilità con i comuni che impegna i comuni a, diciamo, rispettare determinati parametri di spesa. In questo modo ovviamente i comuni possono spendere meno e in questo caso diciamo, l'obiettivo è risparmiare ovviamente, no? Con quello che ha detto oggi Del Rio è che si deve, diciamo, derogare a queste regole del patto per consentire ai comuni di poter investire una, diciamo, quote di denaro per la tutela del territorio. Insomma, questo è, diciamo, ti sembra parole, il minimo probabilmente, il minimo, no? Sì, probabilmente non basterà, perché poi insomma oltre a questa deroga al patto di stabilità probabilmente è necessario che anche lo Stato faccia, diciamo, investimenti su questo versante, e soprattutto che sia gli enti territoriali, i comuni, sia le regioni poi siano davvero capaci di spendere questi soldi, perché abbiamo visto che in questi giorni, no, spesso i soldi c'erano ma c'è stata, diciamo, l'incapacità degli amministratori locali di spenderli in opere utili a tutelare davvero il territorio. Grazie Chicco Padula, buon lavoro. Grazie a voi. Ciao, ciao Chicco. Ciao, ciao. Vedo intanto questo messaggio di Eleonora che dice: occupare le case popolari con la scusa delle famiglie immigrate con minori, a proposito degli scontri di questi giorni, è come se gli accattoni con minori o senza decidessero di rubare agli operai il giorno di paga. Spesso con il pietismo e il giustificazionismo si dà ragione a prepotenti e violenti a scapito di chi osserva le leggi o è davvero bisognoso. Questo è il messaggio di Eleonora. Al 349-238-6666 e sulla pagina Facebook di Effetto Notte, se volete. Ci prendiamo una pausa tra poco. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Roberta Giordano sempre con voi, stavo guardando le ultime notizie, per esempio Tor Sapienza a proposito degli scontri di questi giorni, il ministro dell'Interno Alfano dice occorre un piano per periferie più sicure, anche se è una cosa che si sente, si risente da anni, speriamo che anche in questo caso sia la volta buona. E poi Salvini ad Alfano, Salvini della Lega che dice non giochiamo a nascondino con la scorta. E poi c'è quest'altra notizia della leader della CGIL Camusso che dice al garante degli scioperi non c'è nessuna illegittimità, perché questa sarebbe una delle notizie della serata, col garante che dice lo sciopero del 5 dicembre ha dei profili di illegittimità. Ma vi riassumo anche le altre notizie. Jobs Act si vota alla Camera entro il 26, ma il nuovo centrodestra insorge contro l'emendamento del governo che recepisce i correttivi della minoranza del PD. Lo sciopero del 5 dicembre, vi dicevo, è parzialmente legittimo, dichiara l'autorità di garanzia per gli scioperi. Il maltempo continua a piovere sul nord. Deroga il patto di stabilità per i comuni alluvionati, assicura oggi Del Rio. Poi la Banca Centrale e la crisi. Draghi della BCE dice ripresa ancora a rischio, possibile acquisto di titoli. Poi l'Ucraina, la Merkel avverte, c'è il serio rischio che il conflitto si estenda, e i terroristi dell'ISIS, anche tre giovani europei fra i boia dei soldati catturati. Il segretario di Stato americano Kerry si dice pronto l'Iraq alla controffensiva. E occupiamoci ancora di notizie estere, perché sicuramente l'Ucraina è sempre in primissimo piano, no? Ogni tanto la lasciamo da parte, però il conflitto continua nell'est, la situazione è sempre molto difficile. Tra l'altro oggi il primo consiglio degli esteri europeo dell'Unione Europea sotto la presidenza della neo alta rappresentante per la politica estera e di sicurezza comune, la nostra Federica Mogherini, ha deciso di procedere all'attuazione di misure restrittive aggiuntive rispetto a quelle già prese finora, come il congelamento dei beni e dei visti, mirate contro i separatisti in Ucraina orientale. Poi i ministri degli esteri non hanno invece minacciato, almeno al momento, sanzioni dirette alla Russia come risposta agli sviluppi della situazione nelle regioni orientali dell'Ucraina. Però c'è da segnalare questo allarme della cancelliera tedesca Angela Merkel oggi, che ha detto il rischio è che il conflitto ucraino si possa estendere anche ad altri paesi, quindi per esempio alla Georgia, alla Moldavia, alla Serbia. Dice se si va avanti così ci si può chiedere se ci si debba interrogare anche sulla Serbia, sugli stati dei Balcani, dell'Ovest eccetera. Chiedo a Antonella Scott, inviata speciale del Sole 24 Ore, che ben conosce naturalmente la situazione ucraina. Ciao Antonella. Buonasera. Se la preoccupazione di Angela Merkel sia non così fondata, oppure se davvero si possa estendere un po' a macchia d'olio questo conflitto nell'est dell'Ucraina. Direi che l'allarme che nasce dalle parole di Angela Merkel viene dal fatto che lei ha fatto questo intervento prima di partire dall'Australia, dove dal G20. Sì, esattamente, sì, dal summit del G20, dove come sappiamo c'è stato questo gelo tra i leader, i rappresentanti delle economie occidentali e Vladimir Putin, e in particolare Angela Merkel aveva appena passato 4 ore insieme a lui. Come sappiamo lei è il leader occidentale che ha più stretto contatto con Putin, lungo tutta questa crisi ucraina si è sempre sentita con lui al telefono, lo ha incontrato più spesso di altri, e che abbia fatto delle dichiarazioni così dure, così che lasciano senza speranza, non tanto sul fatto che si possa allargare il conflitto ucraino ad altre regioni dell'Europa, però lei ha proprio fatto capire quanto è grande ormai la distanza tra noi da una parte e la Russia di Vladimir Putin dall'altra, perché Infatti lei ha detto proprio che ha accusato Putin di ragionare ancora in vecchi schemi delle sfere di influenza, quindi pensiero che riporta alla guerra fredda, calpestando la legge internazionale, e appunto questo stato di cose può appunto allargarsi ai paesi che facevano ancora parte dell'Unione Sovietica, come appunto, come dicevi, Georgia e Moldavia, e però andare anche oltre ai Balcani e alle repubbliche del Baltico, ancora ex URSS. Insomma, così come lo ha anche fatto capire la riunione del Consiglio Esteri a Bruxelles, in cui appunto non sono state decise sanzioni direttamente ancora contro la Russia, però si allungherà la lista dei separatisti ucraini che sono arrivati che gestiscono queste regioni che si vogliono staccare dall'Ucraina. Comunque non stiamo ancora parlando non si parla neanche di arrivare invece a una eliminazione delle sanzioni, quindi anche questo ci dà la misura di quanto il problema resti aperto, e anzi probabilmente stiamo arrivando a un ulteriore aggravamento, come peraltro dimostra anche il fatto che nelle regioni intorno a Donetsk e intorno a Lugansk i combattimenti, dopo questa tregua che abbiamo seguito disperatamente ogni giorno, vedere piano piano come si sfilacciava, ora si sta davvero è ormai impossibile chiamarla tregua. Oggi in particolare intorno all'aeroporto di Donetsk, che è proprio uno dei centri dei combattimenti, si parla di nuovo di decine di morti, quindi davvero non è più possibile parlare di tregua neanche così. Però sempre ricordiamo nell'est del paese, nell'est dell'Ucraina. Tra l'altro sì, dicevo prima che i ministri degli esteri che si sono riuniti non hanno deciso ulteriori sanzioni nei confronti della Russia, però hanno ribadito la ferma posizione contro l'annessione illegale della Crimea e di Sebastopoli, che è cosa che è avvenuta per prima, diciamo, in questo processo in questo processo di separazione, no? Sì, anche questa è stata la prima volta che mentre questa era una situazione che era così, diciamo, ci si sorvolava, nel senso che era come stato un po' come accettato il fatto e quindi invece di andare verso, questa è la dimostrazione che invece di andare verso una soluzione, un avvicinamento delle posizioni, davvero sembra proprio che ci si allontani sempre di più, tanto è vero che anche il presidente ucraino Poroshenko, che ha sempre cercato di attraverso anche i suoi incontri con Putin comunque di mettere in piedi un piano di pace, ora invece le dichiarazioni di questi ultimi due giorni sono davvero vanno in senso completamente contrario, e addirittura oggi ha detto siamo pronti alla guerra totale con la Russia, quindi davvero stiamo facendo dei terribili passi indietro. Già, purtroppo. Grazie Antonella Scott. Grazie a voi. Ciao Antonella. Effetto notte. Le notizie in 60 minuti. E ve le riassumo molto brevemente a partire dal Jobs Act, che passerà alla Camera entro il 26 di questo mese, però c'è tensione con il nuovo centrodestra che è contro l'emendamento del governo che ha recepito le correzioni della minoranza del PD. Poi l'allarme di Draghi della Banca Centrale Europea, che parla di ripresa a rischio per l'austerity, la deroga al patto di stabilità per i comuni alluvionati assicurata oggi da Del Rio, e poi gli arresti per le accuse per i razzi a San Siro, la Croazia si scusa, domani intanto ci sarà Italia-Albania a Genova. Europa 24 notte. L'Unione Europea si avvia a bocciare l'IVA agevolata sugli ebook al 4%. Bruxelles considera gli ebook come dei prodotti elettronici e non dei libri, una visione incomprensibile e anacronistica per gli editori italiani che assieme a quelli francesi danno battaglie in Europa. Sono altri i beni che secondo la Commissione possono beneficiare dell'IVA agevolata, come la vendita di navi da guerra. Posizioni incomprensibili, afferma Riccardo Cavallero, direttore generale di Libri Trade Mondadori, al microfono di Valeria De Rosa. Noi crediamo, dice, che questa sia una campagna di buonsenso, talmente di buonsenso che fa pensare che chi non è d'accordo abbia interessi diversi non enunciabili in pubblico. Noi crediamo, come editori, come associazione italiana editori, che questa sia una campagna semplicemente di buon senso. Quindi siamo assolutamente molto confidenti in tutto quello che l'Italia e col ministro Franceschini sta facendo a livello di comunità europea. Ripeto, confidiamo sempre nel buon senso di tutti. Per quanto riguarda poi l'azione italiana, c'è un consenso bipartisan su tutti gli emendamenti che sono stati presentati e continuiamo a confidare che il buon senso possa prevalere su qualunque altra cosa. Però diciamo che in Europa siete voi e i francesi che spingono molto su questo tasto, gli altri vanno un po' in ordine sparso. C'è un po' più di freddezza nei paesi nordici, direi, ma è normale, è un fatto climatico. Non entro nel dettaglio, la Federazione Europea sta muovendosi, sta verificando tutte le posizioni per trovare un punto di incontro. Poi molti paesi avranno altre priorità, sicuramente l'IVA sulle navi da guerra è più importante per altri che quella sui libri, però non possiamo farci nulla. E ripeto, è una battaglia di buon senso, definire la battaglia è quasi anche sbagliato, è talmente di buon senso che fa pensare che chi non è d'accordo abbia degli interessi diversi, probabilmente non così diretti e non così trasparenti e non così enunciabili in pubblico. Il governo italiano ci ha dato un grosso appoggio sino a questo punto, lo sta dando in sede europea, il mandato italiano di presidenza è importantissimo in questo senso, vedremo cosa accade in Europa, diciamo, entro i primi giorni di dicembre con il prossimo Ecofin anche, diversamente cercheremo di risolvere più probabilmente la situazione all'interno del nostro paese. Se questa cosa non dovesse poi, diciamo, andare a buon fine, questo avrebbe un effetto sui consumi. È un mercato questo che sta crescendo, anche se lentamente, però comunque è in crescita, quello degli ebook. Sta crescendo lentamente, l'impatto potrebbe essere devastante su due fronti, uno quello dei consumi ovviamente, l'altro è quello anche di un'alterazione del mercato, perché operatori internazionali che possono giustamente operare su mercati, quali gli Stati Uniti o altri, dove l'IVA è addirittura allo 0%, potrebbero avere dei benefici per continuare a fare investimenti che operatori nazionali non potrebbero avere, per questo è importante che tutti gli operatori nazionali siano messi nelle stesse condizioni dei grandi operatori internazionali per mantenere anche la pluralità sul mercato. Ma tutto figlio di una partenza iniziale sbagliata, quando per ragioni a me ancora oggi oscure non è stato pensato di unificare il libro digitale al libro cartaceo. Europa 24 notte, in collaborazione con Euronet Plus. E parlavamo anche di questa notizia inquietante, che ci sono degli europei, dei giovani europei tra i terroristi dell'ISIS, tra quelli che hanno decapitato brutalmente 17 soldati, e uno inglese britannico, Nasser Mutana, di 20 anni, che sarebbe stato riconosciuto dal padre, che ha detto non potrei mai perdonarlo, è un malato di mente, e poi ha un po' ritrattato. Alberto Negri, inviato speciale del Sole 24 Ore, ciao Alberto. Buonasera a tutti voi. Il paradosso sembra un po', se fosse vero, di questo figlio riconosciuto dal padre, che i padri, almeno alcuni, molti, si sono integrati nei paesi europei, ma quelli di seconda generazione, i figli invece hanno questo senso di rivalsa violentissimo, anche di grande rabbia, e vanno a unirsi a movimenti come quelli dell'ISIS. Ma qui c'è anche la seconda e la terza generazione di immigrati dei paesi musulmani. Circa 3.000 tra l'altro i jihadisti europei dentro al califfato, un terzo quasi dei guerriglieri stranieri che combattono per lo Stato islamico. Chi sono questi jihadisti europei? Ma l'identikit che fanno i sociologi è talvolta sorprendente, perché gran parte di questi giovani votati alla jihad crescono non nell'ignoranza o nella povertà, ma sono istruiti e spesso anche vivono in buone condizioni economiche, sono dei grandi navigatori di internet e vengono poi reclutati principalmente dai canali salafiti. Perché? Perché si arruolano, perché pur uscite da famiglie già integrate nelle realtà europee decidono di andare a combattere per questa organizzazione così sanguinaria. In gran parte sfoga una frustrazione personale che deriva da conflitti con la famiglia, proprio con il padre, con l'ambiente circostante. Il fatto che magari un immigrato abbia avuto successo non significa che i loro figli poi, e i suoi figli, siano allo stesso dei figli di successo. Una gran parte invece è alla ricerca di uno status, di un riconoscimento, di un'identità che in qualche modo, come dire, rilievo, che è pagante. Organizzazioni come Al-Qaeda e il Califfato offrono dell'identità, dell'ideologia, regole precise, una visione del mondo che non consente dubbi e deviazioni. Ecco, questo è un fenomeno sicuramente preoccupante, ma non è certamente l'unico che percorre il nostro continente. Qualcuno dice arriveranno a Roma l'ISIS, come aveva promesso il califfo giorni fa. Lo vedi una cosa possibile, Alberto Negri? Beh, direi sarebbe sconcertante, soprattutto pensando che un paese di 60 milioni di abitanti come l'Italia, tra le prime 10 potenze economiche del mondo, che spende un sacco di quattrini per la difesa, per gli armamenti, che fa missioni all'estero, non sia capace di difendersi e in qualche modo anche capace di mettere in campo delle misure di controterrorismo, di controguerriglia rispetto a questo fenomeno. Ci sono già tra l'altro dei jihadisti italiani, che ci sono pochi, che sono andati lì, qualcuno tra l'altro è stato ucciso, un paio a quanto pare, ma insomma sarebbe un po', come dire, non tanto un periodo ipotetico dell'irrealtà, ma quanto un'altra questione, secondo me, più importante. Il problema che dobbiamo porci è che cosa si sta facendo davvero qui in Occidente per combattere il califfato. Stiamo facendo davvero poco. Tutte le misure, poco, certamente poco, ma anche per un motivo, perché gli Stati Uniti con Obama sono saliti sull'altalena. Già, perché Alberto Negri, dobbiamo ritornare a parlare di questo, tanto una cosa sul quale purtroppo dobbiamo aggiornarci giorno per giorno. Noi ci sentiamo tra poco.